Ad alta voce, Piero Baldini legge Cent'anni di solitudine di Gabriel García Márquez, traduzione di Enrico Cicogna. Aureliano fu l'unico in grado di comprendere la desolazione di Rebecca. Quel pomeriggio, mentre Ursula cercava di riscattare Rebecca dai meandri del delirio, andò con Magnifico Visbal e con Gerineldo Márquez nella bottega di Catarino. I tre amici bebbero succo di canna fermentato. Magnifico e Gerineldo, coetanei di Aureliano, ma più esperti nelle cose del mondo, bevevano metodicamente con le donne sedute tra le gambe. Una di loro, appassita e con la dentiera impiombata, fece ad Aureliano una carezza rabbrividente e lui la respinse. Aveva scoperto che quanto più beveva, tanto più si ricordava di Remedios, ma sopportava meglio la tortura del ricordo. Non seppe come. A un certo momento si sentì galleggiare. Girò la testa e vide l'enorme viso deformato con un fiore di feltro all'orecchio. E allora perse la memoria, come nei tempi della dimenticanza. E tornò a recuperarla in un'alba diversa e in una stanza che gli era completamente sconosciuta, dove c'era Pilar Ternera in sottoveste, scalza, scarmigliata, con una lampada in mano e paralizzata dall'incredulità. Aureliano. Aureliano si raffermò sui piedi e alzò la testa. Ignorava come aveva fatto ad arrivare fin lì, ma sapeva qual era l'intenzione, perché la portava nascosta fin dall'infanzia, in un compartimento inviolabile del cuore. «Vengo a dormire con lei», disse. Aveva gli abiti imbrattati di fango e di vomito. Pilar Ternera, che allora abitava sola coi suoi due figli minori, non gli fece alcuna domanda. Lo portò sul letto, gli pulì la faccia con uno straccio umido, lo svestì e poi si denudò completamente e abbassò la zanzariera perché non la vedessero i suoi figli se si svegliavano. Si era stancata di aspettare l'uomo che non era venuto, gli uomini che se n'erano andati, gli innumerevoli uomini che avevano perso la strada della sua casa, disorientati dall'incertezza delle carte. Nell'attesa le si era raggrinzita la pelle, le si erano svuotati i seni, le si era spenta la brace del cuore. Cercò Aureliano nel buio, gli mise la mano sul ventre, lo baciò sul collo, con una tenerezza materna. «Mio povero bambinello», mormorò. Aureliano rabbrividì. Con un'abilità pacata, senza il minimo intoppo, lasciò alle spalle le scogliere del dolore e trovò Remedios, trasformata in un pantano senza orizzonti, odorosa di bestia cruda e di roba appena stirata. Quando tornò a galla, stava piangendo. Dapprima furono dei singhiozzi involontari e intermittenti. Poi si svuotò in una sorgente sfrenata, sentendo che qualcosa di tumefatto e doloroso era scoppiato nel suo interno. Lei aspettò, grattandogli la testa coi polpastrelli delle dita, finché il suo corpo si sbarazzò della materia oscura che non lo lasciava vivere. Allora Pilar Ternera gli chiese: «Chi è?» E Aureliano glielo disse. Lei scoppiò in una risata che in altri tempi spaventava le colombe e che ora non svegliava nemmeno i bambini. «Dovrei finire di allevarla», scherzò. Ma dietro lo scherzo Aureliano trovò una gora di comprensione. «Parlerò con la bambina», gli disse, «e vedrai che te la servo su un vassoio». Mantenne, ma in un brutto momento, perché la casa aveva perso la pace di altri giorni. Quando scoprì la passione di Rebecca, che non fu possibile tenere segreta a causa delle sue urla, Amaranta fu colta da un accesso di febbri. Anche lei soffriva della spina di un amore solitario. Fu inutile l'intervento di José Arcadio Buendía, che aveva rettificato la sua prima impressione nei confronti di Pilar Crespi e ammirava la sua abilità nella meccanica musicale. Di modo che quando Pilar Ternera disse ad Aureliano che Remedios era decisa a sposarsi, lui comprese che la notizia avrebbe aumentato le tribolazioni dei suoi genitori, ma affrontò la situazione. Convocati nel Salotto Buono per un colloquio formale, José Arcadio Buendía e Ursula ascoltarono senza battere ciglio la dichiarazione del loro figlio. Quando seppe il nome della fidanzata, tuttavia, José Arcadio Buendía arrossì di indignazione. «L'amore è una peste!» tuonò. «Con tante ragazze belle e decenti, l'unica cosa che ti salta in testa è sposarti con la figlia del nemico!» Ma Ursula approvò la scelta. Confessò il suo affetto nei confronti delle sette sorelle moscote per la loro grazia, la loro laboriosità, la loro vericondia e buona educazione, e lodò la senatezza di suo figlio. Vinto dall'entusiasmo di sua moglie, José Arcadio Buendía pose allora una condizione. Rebecca, che era quella corrisposta, si sarebbe sposata con Pietro Crespi. Ursula avrebbe accompagnato Amaranta in un viaggio nella capitale della provincia, quando avesse avuto tempo, in modo che il contatto con gente diversa le alleviasse la delusione. Rebecca recuperò la salute non appena seppe della decisione e scrisse al suo fidanzato una lettera giubilante che sottopose all'approvazione dei suoi genitori e impostò senza servirsi di intermediari. Amaranta finse di accettare la decisione e a poco si ristabilì dalle febbri, ma promise a se stessa che Rebecca si sarebbe sposata solo passando sul suo cadavere. Il sabato seguente, José Arcadio Buendía si mise il vestito di panno nero, il colletto di celluloide e gli stivali di pelle scamosciata che aveva inaugurato la notte della festa e andò a chiedere la mano di Remedios Moscote. Il correggitore e sua moglie lo ricevettero compiaciuti e conturbati allo stesso tempo perché ignoravano lo scopo della visita imprevista e poi credettero che egli avesse confuso il nome della prescelta. Per dissipare l'errore, la madre svegliò Remedios e la portò in braccio nel salotto ancora insonnolita. Le chiesero se era veramente decisa a sposarsi e lei rispose piagnucolando che voleva soltanto che la lasciassero dormire. José Arcadio Buendía, comprendendo il turbamento dei Moscote, andò a mettere in chiaro la cosa con Aureliano. Quando tornò, i coniugi Moscote si erano vestiti con abiti da cerimonia. Avevano cambiato la disposizione dei mobili e collocato fiori freschi nei vasi e lo aspettavano in compagnia delle loro figlie maggiori. Oppresso dalla spiacevolezza dell'occasione e dal fastidio del colletto duro, José Arcadio Buendía confermò che effettivamente si trattava di Remedios. «È una cosa assurda!» disse costernato don Apolinar Moscote. «Abbiamo altre sei figlie, tutte nubili e già in età da marito, che sarebbero felici di essere degnissime mogli di giovani seri e lavoratori come suo figlio. E Aurelito mette gli occhi proprio sull'unica che fa ancora pipì a letto.» Sua moglie, una donna ben conservata, con palpebre e atteggiamento dolenti, le rimproverò quella scorrettezza. Quando finirono di bere il frullato di frutta, avevano accettato con soddisfazione la decisione di Aureliano. Solo che la signora Moscote supplicava il favore di parlare a quattro occhi con Ursula, inquieta, protestando perché la coinvolgevano in faccende da uomini, ma in realtà intimidita dall'emozione, Ursula andò a trovarla il giorno seguente. Mezz'ora dopo tornò con la notizia che Remedios era in pubere. Aureliano non lo considerò un grave ostacolo. Aveva aspettato tanto, poteva aspettare ancora quanto fosse necessario finché la fidanzata fosse in età di concepire. L'armonia recuperata fu interrotta soltanto dalla morte di Melchiades. Anche se era un avvenimento prevedibile, non lo furono le circostanze. Pochi mesi dopo il suo ritorno, si era verificato in lui un progresso di invecchiamento, così affrettato e critico, che ben presto lo si considerò come uno di quei bisavoli inutili che vagano come ombre per le stanze da letto, strascicando i piedi e rammentando tempi migliori ad alta voce, e dei quali nessuno si occupa né si ricorda in effetti, finché un giorno li si trova morti nel letto. Nei primi tempi José Arcadio Buendía lo assecondava nelle sue occupazioni, entusiasta della novità della daguerrotipia e delle predizioni di Nostradamus. Ma poco a poco andò abbandonandolo alla sua solitudine, perché era sempre più difficile comunicare con lui. Stava perdendo la vista e l'udito. Pareva confondere gli interlocutori con persone che aveva conosciuto in epoche remote dell'umanità. E rispondeva alle domande con un intricato guazzabuglio di idiomi. Camminava, tastando l'aria, pur muovendosi tra le cose con una fluidità inspiegabile, come se fosse dotato di un istinto di orientamento basato su presentimenti immediati. Un giorno dimenticò di mettersi la dentiera che di notte lasciava in un bicchiere d'acqua vicino al letto e non la rimise più. Quando Ursula decise di ampliare la casa, gli fece costruire una stanza speciale attigua al laboratorio di Aureliano, lontano dai rumori e dal traffico domestico, con una finestra inondata di luce e uno scaffale dove lei stessa collocò i libri quasi distrutti dalla polvere e dalle tarme, le fragili carte fitte di segni indecifrabili e il bicchiere con la dentiera posticcia, dove erano nate delle pianticine acquatiche con minuscoli fiori gialli. Sembrò che Melchiades gradisse il nuovo luogo, perché nessuno lo vide più, nemmeno nella sala da pranzo. Andava soltanto nel laboratorio di Aureliano, dove passava ore e ore a scarabocchiare la sua letteratura enigmatica sulle pergamene che aveva portato con sé e che parevano fatte di un materiale arido che si sgretolava come una sfogliata. Lì mangiava i cibi che Visitation gli portava due volte al giorno, anche se negli ultimi tempi aveva perso l'appetito e si alimentava solo di legumi. Ben presto assunse l'aspetto di abbandono tipico dei vegetariani. La pelle gli si coprì di una soffice muffa, simile a quella che prosperava sul panciotto anacronistico che non si tolse mai, e il suo respiro esalò un tanfo di animale addormentato. Aureliano finì per dimenticarsi di lui, assorto nella compilazione dei suoi versi, ma in qualche occasione credette di capire qualcosa di quello che diceva nei suoi monologhi vaneggianti e gli prestò orecchio. In realtà l'unica cosa che riuscì a isolare nei borbottii catarrosi fu l'insistente martellamento della parola equinozio, equinozio, equinozio. È il nome di Alexander von Humboldt. Arcadio si avvicinò un po' di più a lui quando cominciò ad aiutare Aureliano nell'oreficeria. Melchiades corrispose a quello sforzo di comunicazione, snocciolando a volte parole in spagnolo che avevano ben poco da vedere con la realtà. Un pomeriggio, tuttavia, parve illuminato da una improvvisa emozione. Anni dopo, davanti al plotone di esecuzione, Arcadio si sarebbe ricordato della trepidazione con la quale Melchiades gli fece ascoltare diverse pagine della sua scrittura impenetrabile, che naturalmente non capì, ma che lette ad alta voce sembravano encicliche cantate. Poi sorrise per la prima volta dopo parecchio tempo e disse in spagnolo: «Quando sarò morto, bruciate mercurio per 3 giorni nella mia stanza». Arcadio lo disse a José Arcadio Buendía e questi cercò di ottenere un'informazione più esplicita, ma riuscì ad avere soltanto una risposta: «Ho raggiunto l'immortalità». Quando il respiro di Melchiades cominciò a puzzare, Arcadio lo portò a fare il bagno nel fiume, tutti i giovedì, di mattina. Sembrò migliorare. Si spogliava, scendeva in acqua con i ragazzi e il suo misterioso senso di orientamento gli permetteva di evitare i punti più profondi e pericolosi. «Siamo dell'acqua», disse una volta. Così passò parecchio tempo senza che nessuno lo vedesse per casa, tranne nella sera in cui fece un commovente sforzo per aggiustare la pianola e quando andava al fiume con Arcadio, portando sotto il braccio la zucca e la palla di sapone di palma, avvolti in un asciugamano. Un giovedì, prima che lo chiamassero per andare al fiume, Aureliano lo sentì dire: «Sono morto di febbre nelle Sirti di Singapore». Quel giorno entrò in acqua da una parte rischiosa e non lo trovarono fino al mattino dopo, parecchi chilometri a valle, incagliato in un'ansa luminosa e con un avvoltoio solitario, fermo sul ventre. Nonostante le proteste scandalizzate di Ursula, che lo pianse con maggior dolore del suo stesso padre, José Arcadio Buendía si rifiutò che lo seppellissero. «È immortale», disse, e lui stesso ha rivelato la formula della resurrezione. Ravvivò l'Atanor dimenticato e mise a bollire una caldaia di mercurio vicino al cadavere, che a poco si andava riempiendo di bolle blu. Don Apollinar Moscote osò ricordargli che un annegato insepolto era un pericolo per la salute pubblica. «Niente affatto, dato che è vivo», fu la risposta di José Arcadio Buendía, che completò le 72 ore di suffumigi mercuriali quando dal cadavere cominciava già a erompere un'efflorescenza livida e quei lievi sibili impregnarono la casa di un vapore pestilenziale. Solo allora permise che lo seppellissero, ma non in modo qualunque, bensì con gli onori riservati al più grande benefattore di Macondo. Fu il primo funerale con il più grande concorso di persone che si vide nel villaggio, superato appena un secolo dopo dal carnevale funerario della Mamma Grande. Lo seppellirono in una tomba eretta in mezzo al terreno che destinarono al cimitero, con una lapide dove rimase scritta l'unica cosa che si seppe di lui: Melchiades. Gli fecero le sue notti di veglia, nella baraonda di gente che si riuniva nel patio per bere caffè, raccontare storielle e giocare a carte. Amaranta trovò l'occasione per confessare il suo amore a Pietro Crespi, che poche settimane prima aveva reso ufficiale il suo fidanzamento con Rebeca e stava preparando un magazzino di strumenti musicali e di giocattoli a molla nello stesso rione dove vegetavano gli arabi che in altri tempi barattavano cianfrusaglie con pappagalli e che la gente conosceva come la strada dei turchi. L'italiano, la cui testa coperta di riccioli suscitava nelle donne un'inesprimibile necessità di sospirare, trattò Amaranta come una ragazzetta capricciosa che non valeva la pena di prendere troppo in considerazione. «Ho un fratello minore», le disse, «verrà a darmi una mano nel negozio». Amaranta si sentì umiliata e disse a Pietro Crespi con un astio virulento che era decisa a impedire il matrimonio di sua sorella anche se fosse stata costretta a sbarrare la porta col proprio cadavere. L'italiano fu così impressionato dalla drammaticità della minaccia che non resistette alla tentazione di commentarla con Rebeca. Fu così che il viaggio di Amaranta, sempre rimandato a causa delle occupazioni di Ursula, fu predisposto in meno di una settimana. Amaranta non oppose resistenza, ma quando diede a Rebeca il bacio d'addio, le sussurrò all'orecchio: «Non farti illusioni. Anche se mi porteranno in capo al mondo, troverò il modo di impedire che ti sposi. Dovessi ucciderti». Con l'assenza di Ursula, con la invisibile presenza di Melchiades, che continuava il suo deambulare segreto nelle stanze, la casa sembrò enorme e vuota. L'ordine domestico era stato affidato alle cure di Rebeca, mentre l'India si occupava del forno. Verso sera, quando arrivava Pietro Crespi, preceduto da un fresco alito di spigo e sempre con un giocattolo in regalo, la sua fidanzata riceveva la visita nel salotto buono, con porte e finestre aperte, per salvaguardarsi da eventuali sospetti. Era una precauzione non necessaria, perché l'italiano aveva dimostrato di essere così rispettoso che non si permetteva nemmeno di toccare la mano della donna che sarebbe stata sua moglie prima di un anno. Quelle visite riempirono a poco la casa di giocattoli prodigiosi. Le ballerine a molla, le scatole musicali, le scimmie acrobate, i cavalli trottatori, i pagliacci tamburini, la magnifica, meravigliosa fauna meccanica che portava Pietro Crespi dissiparono il dolore di José Arcadio Buendía per la morte di Melchiades e lo trasportarono di nuovo ai suoi antichi tempi di alchimista. Viveva allora in un paradiso di animali sventrati, di meccanismi scomposti nell'intento di perfezionarli, con un sistema di moto continuo basato sui principi del pendolo. Aureliano, da parte sua, aveva trascurato il laboratorio per insegnare a leggere e a scrivere alla piccola Remedios. Sulle prime la bambina preferiva le sue bambole all'uomo che arrivava tutti i pomeriggi e per cui era costretta a separarsi dai suoi giochi per essere lavata e vestita e fatta sedere in salotto a ricevere la visita. Ma la pazienza e la dedizione di Aureliano finirono per sedurla, finché cominciò a trascorrere parecchie ore con lui, studiando il significato delle lettere dell'alfabeto e disegnando in un quaderno con matite colorate casette con mucche nei recinti e soli rotondi con raggi gialli che si nascondevano dietro le colline. Soltanto Rebecca era infelice per la minaccia di Amaranta. Conosceva il carattere di sua sorella, l'alterigia del suo spirito e la spaventava la virulenza del suo rancore. Passava ore intere a succhiarsi il dito nel bagno, aggrappandosi a uno spossante sforzo di volontà per non mangiare terra. Cercando un sollievo all'angoscia, chiamò Pilar Ternera per farsi leggere l'avvenire. Dopo una filza di imprecisioni convenzionali, Pilar Ternera pronosticò: «Non sarai felice finché i tuoi genitori rimarranno insepolti». Rebecca rabbrividì. Come nel ricordo di un sogno vide se stessa entrare in casa, piccola piccola, col baule e la poltroncina a dondolo di legno e un sacco, il cui contenuto non aveva mai visto. Si ricordò di un signore calvo, vestito di lino e col colletto chiuso con un bottone d'oro, che non aveva nulla da vedere col re di coppe. Si ricordò di una donna molto giovane e molto bella, con le mani tiepide e profumate, che non aveva nulla da vedere con le mani reumatiche della regina di denari e che le metteva fiori nei capelli per portarla a passeggiare nel pomeriggio in un paese con le strade verdi. «Non capisco», disse. Pilar Ternera parve sconcertata. «Nemmeno io, ma le carte dicono proprio così». Rebecca fu così preoccupata per quell'enigma che lo raccontò a José Arcadio Buendía. E questi la sgridò, perché credeva ai pronostici delle carte. Ma si dedicò al silenzioso compito di rovistare armadi e bauli, di spostare mobili e di ribaltare letti e impiantiti, cercando il sacco delle ossa. Si ricordava di non averlo più visto dal tempo della ricostruzione. Chiamò in segreto i muratori, e uno di loro rivelò di aver murato il sacco in qualche stanza da letto perché gli dava fastidio nel lavoro. Dopo parecchi giorni di auscultazioni, con l'orecchio incollato al muro, percepirono il cloc cloc profondo, perforarono il muro e le ossa erano lì, nel sacco intatto. Quello stesso giorno lo seppellirono in una tomba senza lapide, improvvisata vicino a quella di Melchiades. E José Arcadio Buendía tornò a casa liberato da un onere che per un momento aveva pesato sulla sua coscienza quanto il ricordo di Prudencio Aguilar. Passando dalla cucina, diede un bacio sulla fronte a Rebecca Levati le cattive idee dalla testa, le disse. Sarai felice.